Se non vado errato, Romano Prodi deve essere uno di quelli che nel 76 hanno partecipato a una seduta spiritica dove si sarebbe richiamata la pia ombra del compianto Giorgio La Pira per vedere se ne sapeva qualcosa di dove era andato a finire l'onorevole Moro. Già da quell'occasione, ecco, dunque si potevano anche constatare quelle basi culturali di Prodi che l'avrebbero portato più tardi alla fraterna amicizia con Veltroni, quello che ha saputo trasformare un quotidiano dei lavoratori in un quotidiano per chi ama il cinema. Questa fraterna amicizia con tanto intellettuale, tuttavia, non ha giovato molto alla furbizia televisiva dell'attuale leader dell'Ulivo. Riferiscono i giornali che l'altro giorno è stato fermato all'ultimo momento mentre si avviava alle telecamere, improvvidamente provvisto della sua inseparabile cartella. Sembra che tenersi una cartella in mano o portarsela presso o appoggiarsela lì dove capita sia un disastro semiologico e massmediale. Dicono gli specialisti del look televisivo che nulla deve stare in mano del vero leader e del trascinatore di popoli. Non una penna, non un black notice, giammai un fazzoletto, giammai lo stuzzicadenti, giammai la lima per le unghie o altri oggetti su cui sfogare ansie e isterie. Il buon leader, per apparire sicuro di sé, deve essere asciutto e composto, a suo agio e perfettamente padrone di sé. Nessun movimento involontario deve tradirne la tensione, perché, dicono gli specialisti del look vincente, se il popolo bue se ne accorge, vota subito per l'avversario. Non vorrei dare consigli vincenti a Prodi. Nulla di più lontano dalle mie intenzioni, ma se riflettesse un pochino rimarrebbe com'è. Lasci pure che i Berlusconi si impomatino nel doppio petto gessato e sorridano. A questo mondo c'è poco da sorridere e ogni cosmesi elettorale non farà che risolversi prima o poi nell'ottava piaga d'Egitto. Stia alla larga quindi dagli esperti in comunicazione e dai raffazzonatori di immagine. Non è che la spontaneità paghi sempre, perché uno può anche essere spontaneamente un imbecille, ma il fasullo si sudora lontano un miglio e non tutti coloro che sono chiamati a sceglierlo sono autolesionisti. Non ce l'hanno solo i Berlusconi, l'esperto al fianco. Da qualche giorno ce l'ha anche Pacciani. Ma se Berlusconi ha l'esperto in comunicazione, Pacciani ha il criminologo. Va in TV e discetta di sé e del mondo accompagnato e consigliato dal criminologo. Dato il suo momento storico, uno avrebbe pensato, che so, a due chierichetti, ad un premio Nobel per la pace o alla presidentessa dell'Opera per la protezione della giovane. No, invece si è scelto un criminologo, il che per un innocente è quantomeno strano. Mentre non è strano che chi deve raccontare bugie, come i Berlusconi, cerchi il consiglio di uno che sappia darla a bere, è strano che l'innocente si avvalga del sapere di uno che per definizione ha studiato soltanto i colpevoli. Finalmente un indizio?